Caro Milan, non ti smentisci mai, sei sempre il solito ipocrita. Radio Kabul. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, 9 e 9 minuti ci siamo per una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Cari ascoltatori, io sono sempre nella ridotta di Viale Monza e voi che fate? Scriveteci al 349-238-6666, chiamateci all'800-24-0024, siamo con voi, c'è Carmelo Lauricella, c'è la nostra... in regia, Accidenti, stavo cercando di farlo passare un po' così. C'è la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. C'è anche Claudia Schiattone oggi in regia. Abbiamo avuto un breve scambio di opinioni su l'errore di CR7. Io dico solo a Claudia Schiattone, che è tifosa della Juve, purtroppo, come è finito il campionato, non il campionato, come è stato sospeso il calcio qualche mese fa con un rigore della Juve a San Siro contro il Milan. Come si è ripreso? Neanche si è ripreso. Pronti via, pam, rigore per la Juve. Sono quelle certezze che, come dire, coronavirus sì, coronavirus no. Rigore per, anzi guarda, c'è una notizia adesso l'Ansa, rigore per la Juve in questo momento alle 9:10 minuti. Va bene, dai, scherziamo, si scherza, ma tra poco mi sa che sarà così veramente. Dai, caro Carmelo, andiamo che oggi abbiamo tante cose da dire come al solito. E allora Ale, enthusiasm about the future. Oggi parleremo del caso Regeni, più avanti parleremo un po' di lingua nel senso di lingua italiana, il linguaggio delle parole che sono così cambiate in questi mesi di coronavirus. Avremo ospite tra poco Oscar Farinetti, parliamo di attualità economica, se volete, degli stati generali. Devo dire che i giornali si sono rianimati con queste questioni politiche che a me veramente mandano in bestia, perché danno, secondo me, questa è la mia battaglia da anni, inutile battaglia, assolutamente persa, è una battaglia per dire lo scollamento che c'è del dibattito politico che finisce sui giornali e quelle che sono le preoccupazioni reali dei cittadini. Non so, pensate, uno che non ha ancora ricevuto la cassa integrazione, che oggi si trova a pagina 2 del Corriere della Sera tutta la galassia del Movimento 5 Stelle. Ci sono, oltre al fondatore Beppe Grillo, gli ortodossi, gli istituzionali, i ministri, i movimentisti, i big di peso, poi c'è Rousseau, non vi sto a dire a chi appartiene a chi, cioè non mi interessa, però interessa, ecco, forse interessa a molti esponenti del Movimento 5 Stelle. Voglio chiedere a loro cosa ne pensate, cari esponenti del Movimento 5 Stelle. Io, se fossi un esponente del Movimento 5 Stelle, un iscritto, un associato, un frequentatore, e vedessi, come dire, questa galassia come, dico la parola più odiata dal Movimento 5 Stelle, come un partito qualunque, come un partito, come gli altri partiti, io mi innervosirei parecchio. Eppure quello che ieri Di Battista ha detto da Lucia Annunziata ha rilanciato il tema congresso, non congresso. Beppe Grillo gli ha risposto, tra l'altro, con una straordinaria citazione di un bellissimo film, Il giorno della marmotta, meraviglioso, se non l'avete visto guardatelo, un film di diversi anni fa. Ecco, io, se fossi uno dei 5 Stelle, un po' mi innervosirei dicendo: ma come, non siamo nati in modo diverso dagli altri? Finiamo sui giornali con la galassia delle varie correnti come se fosse una democrazia cristiana qualunque di diversi anni fa? Però sentiamo intanto quello che ha detto Di Battista sul tema il congresso. Perfetto. Parola congresso, si figuri, in cui tutte le anime del movimento, a cominciare da iscritti e persone e attivisti, consiglieri comunali, circoscrizioni che stanno sul territorio, dicano la loro per prendere e costruire un'agenda politica. La mia visione è quella legata al rafforzamento dello Stato e alla lotta a politiche globaliste e neoliberali. Questa è la mia visione. E vedremo chi vincerà. Vedremo chi vincerà. Ecco, proprio il congresso con le varie correnti. Questa è la mia visione, facciamo un bel congresso, vedremo chi vincerà. Una cosa un po'... da anni un po' retro della politica, però non giudico, perché io giudico dall'esterno e quindi sarebbe facile. Chiedo a voi, cari amici, se siete del 5 Stelle, se guardate con attenzione a questa esperienza politica, se pensate che Conte debba essere il leader del Movimento 5 Stelle, come pare voglia Di Maio, insomma chiamateci all'800 24 00 24. Ebbene sì, si torna a parlare di politica, per me cose inutili rispetto alle concretezze della vita quotidiana, però questo è... C'è anche da dire che c'è tutto il dibattito. Io quando ho visto questa incursione degli studenti del collettivo Vatte la Pesca, non so neanche quale, universitario, studenti, che hanno imbrattato, tre imbecilli, che hanno imbrattato la statua di Montanelli di vernice rossa, poi gli hanno scritto razzista, non so se stupratore, insomma l'hanno considerato uno schiavista, una roba indecente, ne abbiamo già parlato. È come dire, in tutto il mondo c'è un dibattito, il fenomeno, il movimento Black Lives Matter, i movimenti seri, e poi noi andiamo a prendere della vernice e imbrattiamo la statua di Montanelli. Abbiamo già parlato, abbiamo spiegato il motivo, la vecchia intervista nella quale Montanelli ha dichiarato che ha fatto una cosa sicuramente spregevole, no? In Abissinia, quando era soldato, ha comprato letteralmente una dodicenne, e per quel gesto si va a imbrattare la statua. Io tra l'altro devo dire una cosa, secondo me non mi interessa neanche che sia un reato. Io vorrei che venissero presi costoro e prestassero la loro lingua, quella proprio in bocca, la lingua, così, e ripulissero, li facciamo ripulire con la lingua quello che hanno imbrattato. Così, per me sarei a posto così, su, vieni qua, adesso ripulisci, ma con la lingua, e poi a posto. Siamo a posto, il dibattito è concluso. Ecco, così la vedrei, ma chiaramente una punizione corporale un po' esagerata, mi rendo conto, ma anche significativa. Cioè adesso seguirà dibattito sulla questione, è giusto o no imbrattare la statua di Montanelli, ma spero che il dibattito non ci sia. Ma veniamo al tema di apertura, sul quale mi voglio concentrare con il mio primo ospite, perché io ho letto oggi il piano che verrà annunciato da Conte, alla presenza forse anche di Colao oggi, capo della task force, e accidenti, 55 voci per rilanciare il paese, rivoluzione digitale, sto parlando degli Stati Generali, rivoluzione digitale, infrastrutture, alta velocità al sud, green economy, industria 4.0, ammodernamento delle strutture alberghiere, meno burocrazia c'è sempre, cioè tu vai a fare anche un aperitivo, dici meno burocrazia, è una cosa che tira sempre moltissimo, investimenti in ricerca, investimenti nella sanità, rivoluzione e riforma della giustizia. Ma c'è qualcuno al mondo che non sposerebbe un'agenda del genere? C'è un pazzo. È meraviglioso, cioè libro stupendo, altro che libro dei sogni, è una cosa, cioè se si facesse tutto questo saremmo a posto come Stato Italia fino al 2450, quindi viva gli Stati Generali, viva tutto quello che verrà fatto di questo. Ecco, quello che verrà detto, che verrà fatto, è una cosa un po' diversa da quello che verrà fatto. Ma vorrei chiedere lumi a Oscar Farinetti. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Milan. Intanto svegliamo il mistero, ma ci va sti Stati Generali? Perché ho capito che era partito un invito, almeno sui giornali. È arrivato questo invito? No. Non ci vado perché non sono mai stato invitato, ma va bene così, non è un problema, insomma. È un problema, se mi avessero chiamato, come ogni cittadino, come anche lei Milan, saremmo andati. Sì. Rispetto alle istituzioni, però non mi hanno chiamato, meglio così. Meglio, ma così. Da parte lei citava, no, perché meglio lei così citava, vuol dire che ci andava contro voglia. No, perché avrei detto, la prima cosa che avrei detto, cioè avete creato una commissione capitanata da Colao, secondo me molto valida, sì. Hanno fatto un gran bel lavoro, perché è vero, loro dovevano scrivere il libro delle utopie, come diceva lei, perché va fatto, è il momento in cui bisogna pensare alle utopie. pensato che utopia derivi da eutopus, cioè da luogo bellissimo, non da outopus, cioè da non luogo. È il momento di pensare alla grande utopia. E questa commissione ha fatto un gran bel lavoro, io me lo sono letto attentamente. Il tema è che parte, qual è il punto? Lei legga il punto numero uno, imprese e lavoro. Cioè al punto numero uno mette la centralità delle imprese, cioè scopre l'uovo di Colombo, cioè che il lavoro si crea con l'impresa. E diciamo che questo governo ha dimostrato di non avere una grandissima attenzione alle imprese, diciamo che ha una visione un pelino più assistenzialista del paese, e quella è una rivoluzione copernicana rispetto alla politica, diciamo, dei 5 Stelle. Quindi se fosse imprese e lavoro, cioè lei si aspetta che oggi, non so, Farinetti si aspetta che Conte possa aprire, dicendo, siccome imprese e lavoro, che ne so, dico una provocazione, i Navigator basta, non hanno portato a grandi risultati, li licenziamo tutti. Dobbiamo investire sulle imprese perché abbiamo scoperto che sono le imprese che creano i posti di lavoro. I posti di lavoro non si creano con i Navigator, si creano con delle imprese dove sono degli imprenditori che mettono un'idea, rischiano i capitali e si sbattono. A quel punto entrano in scena i lavoratori, che hanno la stessa importanza dell'imprenditore, perché l'imprenditore senza i lavoratori non compila un tubo e si fa delle robe. Per esempio un paese come l'Italia, il piano è ben scritto, che ha due vocazioni ben chiare: di vendere bellezza al mondo, visto che siamo la patria della bellezza mondiale, non solo nel cibo, nel mestiere, ma anche nella moda, ma anche nei mobili, eccetera. E la seconda missione è quella di vendere bellezza al mondo, nel senso di importare turisti stranieri. Se noi riuscissimo nei prossimi 5 anni a raddoppiare le esportazioni delle nostre eccellenze, sto parlando di una roba che si può fare, che è facile. Facile perché c'è una grande domanda, tu devi investire dove hai una domanda spontanea. Che cosa vuole la gente dall'Italia? Vuole le nostre meraviglie, perché sa che nel mondo ci stimano molto di più di quanto noi stimiamo noi stessi, insomma. L'Italia è ben vista, e poi raddoppiare il numero di turisti stranieri, passando da 50 milioni a 100 milioni, cosa che si può fare. Ma infatti è anche in previsione, ho letto da qualche parte, è un grande investimento sulla comunicazione del paese Italia, sulla comunicazione. Però il libro, il lavoro va fatto bene. Quello che ho letto però è il libro dei sogni. Sì, quello ma che ho letto, scrivere, no? Bisogna scrivere il libro dei sogni e realizzare qualcuno, poi non li fai tutti, no? Non è possibile farli tutti, ma è lampante che un paese come il nostro deve ripartire dall'impresa capace di vendere bellezza al mondo. Questo è il nostro mestiere, siamo condannati a fare quello. È inutile che facciamo altre robe sulle quali non siamo bravi. Sì, però il tema è, molti dibattono su questo, servivano o no questi stati generali? Cioè c'è il Parlamento, c'è, per esempio, so che sicuramente non è affine politicamente a Salvini, Meloni, nostro Scalfarinetti, però dicono, ma uno che non riceve la cassa integrazione, un italiano, uno del milione di italiani che non l'ha ancora ricevuta, guarda questi stati generali e cosa dovrebbe pensare? Guarda lo show degli stati generali e magari si può anche arrabbiare, questo hanno abbastanza ragione. Allora, ascoltare i competenti è sempre importante, noi che ci occupiamo di impresa facciamo così, quando devo fare una roba di cui non sono tanto pratico chiamo un competente, il competente mi aiuta a prendere la strada giusta. Quindi il fatto che il nostro governo debba ascoltare i competenti per riuscire a prendere la direzione giusta è vitale, magari non nel caso di utilizzarlo con un mega show, lo puoi fare ogni giorno, vedi uno, poi vedi l'altro, non so, fai ste robe qui, non so, io mi immagino magari uno come Di Maio che si deve occupare di sviluppo all'estero, magari può venire in mente di sentire l'azienda più importante in Italia che vende retail food di eccellenza nel mondo, non 2 lire, 600 milioni, con 9.000 persone all'estero e che ha combinato determinate cose in America, in Brasile, cioè si sta sponsorizzando Farinetti. Di Maio, no, chiami Farinetti, sta dicendo Di Maio, no, chiami Farinetti. Io al suo posto l'avrei fatto, cioè, magari, ma per farmi dire due robe e poi ripreso magari un avviso da uno che conosce il mondo perché lo fa di mestiere. Ma come io tutti i giorni cerco di ascoltare delle persone che ne sanno più di me nei vari campi, ogni giorno trovo persone che hanno più talento. Da imprenditore invece, questi soldi che arriveranno dall'Europa, cosa servono? Ecco, pare che il progetto di Di Maio sia abbassare le tasse. Qualcuno fa notare che l'Europa ci darà i soldi dicendo, oh ragazzi, non è che potete farne quello che volete, cioè vi diamo i soldi ma vi fate le riforme, fate la riforma della giustizia, vi mettete a posto, magari abbattete un po' il debito. Cioè questi soldi dell'Europa cosa ci servono? Servono, intanto sono una montagna di soldi, nei prossimi anni non arrivano tutti quest'anno, lei sa bene, esatto, che arrivano, no, arrivano, anzi, spalmati, quest'anno zero, arrivano spalmati, ecco, vanno proprio fatti per riformare. Qual è il compito della politica? Il compito della politica è quello di creare gli scenari favorevoli alla ripresa, non la deve fare lei, non è che Di Maio deve andare a mettere il parmigiano reggiano ai cinesi, ma deve far venire voglia agli imprenditori del parmigiano reggiano di andare a sedere nella sedia e andare nel mondo a vendere il parmigiano reggiano. E la leva è quella fiscale, è chiaro che dobbiamo dividere le tasse, ma con un criterio: a chi dividiamo le tasse? Perché se prendiamo e dividiamo le tasse a tutti, non ha senso, no? Bisogna dividerle, per esempio, nel campo delle, se vogliamo favorire l'esportazione, diciamo alle imprese italiane: se incrementate le esportazioni nel vostro anno fiscale avrete una diminuzione di tasse. Questo fa venire voglia alle imprese italiane di esportare. Se diciamo alle imprese del turismo: se riuscite ad aumentare il numero di turisti stranieri in Italia nel vostro anno fiscale avrete una diminuzione delle tasse, può far venire voglia. Questo deve fare la politica, deve lavorare sulla leva fiscale per indirizzare il proprio paese verso una vocazione. Okay? Sì. Poi deve intervenire direttamente su un po' di robe, tipo le infrastrutture. Per esempio, mancano i treni al sud, vogliamo rilanciare il sud e non ci sono i treni. C'è questo punto di stato generale, alta velocità al sud. Se vogliamo rilanciare il turismo, dobbiamo avere una rete, la famosa 5G, cioè dobbiamo avere una rete molto forte per potersi collegare dovunque. Perché ci sono tutti i punti, sì. Il problema è che Colau è fatto veramente bene, avevano fatto bene, cioè la politica, in assenza di capacità personali di creare un piano strategico, l'ha delegato a Colau e C, perché Colau e C hanno fatto un piano politico, mica tecnico, non è che va dovete diminuire del 17,5% le tasse alle imprese. Dicono tutti che manca in questo piano è quanto costa, che non è secondario come punto. Quanto costa? A parte che lo stesso Colau ha detto 55 punti, se anche ne fanno 10 a me sta bene, cioè come dire, ragione, no? Io ne metto 55. Ma quanto bisogna costa? Cominciare, al mattino ci svegliamo con 100 cose da fare, succederà anche a lei. Sì, la poi, to-do list, come no? Già può farne 10. E deve prendere un foglio bianco e scrivere le prime 10 che può fare. Dobbiamo cominciare dalle cose più necessarie, più importanti. Oggi la roba più importante è creare lavoro attraverso le imprese, cioè favorire le nostre imprese che facciano delle robe per creare dei posti di lavoro. Intanto abbiamo capito che non ci riusciamo con il navigator a creare i posti di lavoro, no? Dobbiamo farlo attraverso le imprese. Se vogliamo mantenere una Repubblica fondata sul lavoro, perché se invece vogliamo creare una Repubblica fondata sull'assistenza, è un altro discorso, no? Cioè, se immaginiamo che diamo dei soldi alle famiglie e ai ragazzi fino a 18 anni, quindi fino a 18 anni hanno un bel, dopodiché passano al reddito di cittadinanza, fino a quando vanno in pensione, poi arriva la pensione. Se uno immagina un paese così, fa altre robe. Se invece uno immagina un paese dove ci sono delle imprese che creano dei posti di lavoro e questi posti di lavoro agiscono per il bene comune, per creare armonia, eccetera, come era un tempo, come è sempre stato, allora bisogna favorire il lavoro delle imprese. Veramente io prenderei questo piano Colau, che è una roba che c'è, e lo applicherebbe. Prima di fare e comincerei. Ma infatti, primo, poi secondo, hanno fatto un gran bel lavoro. Infatti si prende questo piano, ma io dico, si prende questo piano Colau, si discuta in Parlamento. Non ho capito l'idea degli stati generali, ma va bene, a me discutere va benissimo, se poi alla fine si mettono delle eccellenze, delle menti e vengono fuori le proposte, va sempre bene. Il problema è la soluzione zero, cioè la politica vive in un perenne stato di campagna elettorale, cioè vive proprio pensando ai sondaggi, pensando ai consensi, e tu non puoi lavorare così. Sai come li chiamiamo noi nelle imprese, quelle che di fronte ad un problema la prima cosa che pensano è che figura farò io, come sarò io, che consensi avrò? Li chiamiamo paraculi. Sì. E quindi preferiamo le persone che di fronte ad un problema la prima cosa che se fossi Cruciani, Tito Farinetti, i politici sono dei paraculi. Non tutti, perché a prendere decisioni in modo tale da aumentare i propri consensi. consensi a breve termine, anche perché allora, siamo sempre in campagna elettorale, tra un po' c'è le no, ma è chiaro, il 20 è il 20, ci sono le regionali. Io nel salutarla devo dire, sono contento perché l'abbiamo lanciato qua il primo giorno, che il suo libro Serendipity sta andando bene, poi so che dà i soldi in beneficenza, cioè racconta delle scoperte casuali di prodotti d'eccellenza che poi sono diventati, che ne so, uno su tutti che mi viene, la Coca-Cola, ma ce ne sono mille. Ce ne racconta uno oggi, un prodotto raccontato in Serendipity? Guarda, gliene racconto uno della mia terra, che è la Nutella. La Nutella nasce in Serendipity. Al giorno avuto il mitico Michele Ferrero, da giovane, che aveva venduto questi panni di gianduia, si rende conto, panni di gianduia vuol dire pezzettoni di cioccolato, si rende conto che in primavera, in estate si scioglie, e i commercianti che l'ha venduto protestano. Che disastro, era un errore. E allora lui viene in mente e dice: questa crema che si è creata, vendiamola come crema, la mettiamo dentro dei bicchieri. Allora le massaie erano molto negli anni 50. Ah, cioè praticamente erano pezzi di gianduia sciolti sotto il sole. Questo va a prendere dei bicchieri che poi si possono anche usare in cucina, per cui la donna parsimoniosa dice: questa roba poi la riutilizzo. E il riutilizzare è un altro argomento molto moderno, e si inventa questa meraviglia che chiama prima super crema, poi Nutella, che oggi dà lavoro, solo nella mia città Alba, a 3.000 persone. Bene, ma quel libro lì serve anche per la politica, perché serve a capire che il metodo per raggiungere l'obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. Quello che serve è la tenacia, quello che serve è la curiosità, quello che serve è il pensare che esistono persone che hanno più talento di te, quello che serve è disponibilità a cambiare idea, è una cosa straordinaria. La politica la vediamo molto poco, uno parte e poi ogni tanto avere una botta anche di serendipità, una botta di... Ce l'abbiamo sempre, viviamo in clima perenne di serendipità, succede di ogni... Lei quando ha cominciato questa trasmissione magari non si immaginava che avesse un consenso così, magari voleva parlare di certe cose, nel tempo ha modificato, si è messo a parlare d'altro. Quello che conta è aver creato uno strumento di educazione e di educazione alla gente, perché questa è la sua funzione, l'opinione pubblica. Certo, nel ringraziarla Oscar Farinetti, quindi niente stati generali, lo trovate in libreria ovviamente, Serendipità o Serendipity meglio il titolo, Serendipity sono la storia di dalla Nutella, Coca-Cola, ma anche i formaggi, come sono nate come sono state scoperte delle eccellenze anche con dei tocchi di genio, dei colpi di genio, della serendipità per l'appunto. Ci fermiamo ringraziando Oscar Farinetti, andiamo un attimo in pubblicità, poi arriva Leonardo Manera, ci raggiungerà anche il senatore Luigi Manconi, perché voglio parlare invece, cambiamo argomento, la vicenda Regeni. C'è una famiglia che dice che si sente tradita dallo Stato, li sentiremo, sono intervenuti a Propaganda Live da Zoro giovedì, a dire: siamo stati traditi dallo Stato. E noi dobbiamo forse dare una risposta a questi familiari tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. We can remember swimming in December. Milan, bisogna arrivare in area per ottenere i rigori. Non parlare più dei 5 Stelle, tanto le prossime politiche andranno sotto il 7%. Milan, ma quando è che te ne vai in ferie? Sei insopportabile, non si può più ascoltare. Grazie. Questa radio. Speriamo presto. Milan, tranquillo, rilassati. Una statua a te, come ex giornalista, non la faranno mai. Non c'è dubbio anche su questo. Devo dire, saluto Leonardo Manera. Leonardo, buongiorno, vedi che bel clima. Sono contento. Vedo che la settimana vedo che è cominciata bene per te, con tanti apprezzamenti. Sì. Secondo me molte persone ascoltano la radio per disprezzare. Per insultare. Il disprezzo. C'è una nuova trasmissione che si chiama Il Disprezzo. Il dove disprezzo, le persone a prescindere possono disprezzare i conduttori. Oppure sociale, chi vogliono, si potrebbe scegliere ogni giorno un bersaglio mobile. Sì, ma in primis, insomma, in primis meglio i conduttori, che sono lì sempre, quindi sono abituati anche a essere disprezzati. La gente non ha ancora non hanno capito, gli ascoltatori, che per esempio, mentre Leonardo Manera soffre moltissimo di queste forme di disprezzo, se voi iniziate a insultare Manera, lui proprio si ripiega. Io A me non interessa nulla, cioè, anzi, quando vai in ferie, allora annuncio quest'anno che bisogna scaricare molte ferie perché insomma coronavirus, vicende aziendali, non vi dico, farò 6 settimane, ci fermeremo 6 settimane da fine luglio a tutto agosto, Leonardo, 6 settimane di ferie. 6 settimane di ferie, beh, sì, non è male, sì, diciamo. Però no, dicevo che le persone che non subiscono il disprezzo sono quelle che sono molto vanitose, che parlano sempre di sé, che così sono piene di sé. No, invece quelle che un po' lo subiscono il disprezzo sono quelle un po' più sensibili, che magari reagiscono anche in modo inaspettato, ma sono anche più sensibili e attenti. Ma io sono molto sensibile, ma sono molto sensibile, ma se mi critica uno che mi conosce per qualcosa di concreto va bene, ma se uno chiama la radio e dice sei insopportabile, mette giù, cioè non capisco neanche perché, non mi fa né caldo né freddo. Faccio un appello veloce agli ascoltatori. Ascoltatori, dai, mandate un WhatsApp audio con dove dite semplicemente conduttori, vi disprezzo. Così, basta. Va bene. Vi disprezzo. Allora, adesso dobbiamo parlare di un tema molto serio. I genitori di Giulio Regeni sono andati da Zoro, da Diego Bianchi, a Propaganda Live e hanno accusato, parlano raramente, devo dire, e hanno accusato in maniera chiara lo Stato, dicendo ci sentiamo traditi dallo Stato. Quando dicono due genitori una frase del genere, bisogna ascoltarli e bisogna avere rispetto e bisogna capire. Senti l'audio. E invece è proprio lo Stato italiano che ci ha traditi. La prima volta, il 17 luglio del 2017, quando ha rinviato l'ambasciatore al Cairo. E adesso, con la vendita delle armi all'Egitto, che è un tradimento non solo per noi, ma per tutti gli italiani, per le persone che credono nella inviolabilità dei diritti e nella giustizia, e nel popolo giallo che ci accompagna costantemente e ci sostiene nella nostra ricerca di verità e giustizia. Io saluto il sociologo Luigi Manconi, che ha presieduto la Commissione dei diritti umani al Senato. Buongiorno Manconi, grazie di essere Buongiorno a voi. Grazie. Il caso Regeni si occupa molto da tempo. La domanda secca, non so se c'è un sì o no, ma lei le avrebbe vendute, se avesse avuto la firma finale, queste fregate, queste armi, insomma, all'Egitto? Guardi, facciamo finta che io sia d'accordo con la vendita di queste armi all'Egitto. È certo che era l'occasione giusta perché i diritti umani non finissero come sempre fuori dall'agenda delle relazioni politico-diplomatiche, ma fossero prioritarie. Cioè, io immagino un negoziato con l'Egitto, dall'Italia con l'Egitto, in cui si dice in ballo c'è una commessa di 10 miliardi per sistemi d'arma e la cooperazione giudiziaria vera, seria, concreta, sì, per l'accertamento della verità su Giulio Regeni. Ecco, e anche sul caso Zaki, mi permette, certo, di aggiungere Manconi, ecco, anche sul caso Zaki. È l'esatto contrario di ciò che viene fatto, viene sempre fatto l'opposto, cioè si distinguono, si separano, si isolano le questioni economico-commerciali, politico-diplomatiche, da quelle della tutela dei diritti umani. Ecco, solo mi scusi, ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, perché io dico, li mettiamo insieme, io egiziano dico, va bene, li metto insieme, comincia a darmi le armi. E poi dopo, se io non rispetto i patti io Egitto, che cosa faccio io Italia? No, non cominciamo a vedere le armi, diciamo l'esatto contrario, vendiamo le armi e allo stesso tempo controlliamo concreti passi. La questione è esattamente questa, ed è questa da 4 anni, attenzione, da 4 anni, ed è sempre la stessa: separare le relazioni politico-diplomatiche, che diventano sempre quelle più urgenti, più importanti, quelle determinanti, da quello che sembra chissà perché un'appendice secondaria, marginale, insignificante, la tutela dei diritti umani. E mi faccio aggiungere una cosa: io penso che ci sia della cattiva pessima retorica in questi rituali omaggi al coraggio dei genitori di Giulio Regeni. Perché dicendo questo, troppi pensano a liquidare la vicenda di Giulio Regeni come una vicenda personale, privata di una famiglia, e dunque al massimo, nell'ipotesi più lusinghiera, come una questione umanitaria, addirittura filantropica, di invece è una questione di relazioni diplomatiche, lei dice, no, una questione di politica, guardi, di stati. Ti dico di più, quando un cittadino italiano viene ucciso in un paese considerato amico e che si continua a definire, come dire, imperturbabili da 4 anni, amico, questo paese, quando un cittadino italiano viene ucciso in quel paese, quello che viene oltraggiato, oltre che ovviamente il dolore dei familiari, degli amici, quello che viene oltraggiato è la sovranità del nostro paese. Sì, sì. In un momento in cui tutti parlano di sovranità, si dimentica che il fondamento della sovranità nazionale è la possibilità di difendere l'incolumità, quella fisica, quella dei corpi dei propri cittadini. Sì, bene, sì. L'Egitto ha offeso questa incolumità. Certo. E questa ci spiega Manconi, esatto, questo punto. Non è solo una questione, anche una questione personale, ma una questione che riguarda lo Stato italiano. So se Leonardo hai una considerazione. Anch'io ho l'impressione che a volte elogiare i genitori di Giulio Regeni o anche tutte le bandiere verità per Giulio Regeni sia un po' un modo per scaricarsi la coscienza e poi andare avanti come prima. Anch'io ho un po' questa impressione. Però perché secondo lei i genitori hanno fatto questo passo dicendo, sentendosi traditi dallo Stato? In che cosa? Nelle cose che lei ci sta spiegando, cioè non ha visto nessun atto concreto? Qualcosa di più. Mi è toccato in sorte di essere testimone di questa vicenda perché sono stato coinvolto dal primo momento. E dal primo momento, cioè dal febbraio del 2016 a oggi, non è stato fatto dal nostro paese e dai governi che si sono succeduti, governi quelli di centrosinistra che personalmente ho sostenuto, quindi il mio giudizio vale per questi, così come i successivi governi del presidente Conte, durante questi governi non è stato fatto un solo atto vero, serio, concreto di pressione sull'Egitto, non uno sul piano. E allora quando, quando legge oggi, scusi Manconi, quando vedrà sicuramente l'intervista a Minniti su Repubblica, ex sì, ministro interno, che ha detto l'Egitto deve farci processare chi uccise Regeni, ora il momento è arrivato, di fronte a una democrazia artificiosamente costretta nel caso Regeni all'alternativa diabolica trascende i principi e gli interessi, a un'Europa inerte di fronte a un Mare Nostro, si può e si deve rispondere in un solo modo con il massimo del realismo, cioè c'è un Minniti che dice ora l'Egitto ci deve ascoltare. Sono parole, secondo lei, tra virgolette, al vento? Sì, sono parole vane, perché l'Egitto per 4 anni non ci ha ascoltato. Quindi il momento non è ora, il momento semmai in una logica diplomatica e commerciale era nel momento in cui si avviava il negoziato per la fornitura di quella commessa di 10 miliardi per sistemi d'arma. In quel momento, in quel negoziato, la questione della tutela dei diritti umani in Egitto e la questione della verità e della giustizia per Giulio doveva essere priorità tra le priorità. E quindi ci sta dicendo che ormai è tardi? Temo ovviamente che la situazione sia compromessa. Ricordo quello che nella registrazione che avete fatto sentire diceva Claudio, il padre di Giulio. Nell'aprile del 2016, quindi 2 mesi dopo il rapimento di Giulio Regeni, finalmente ci si decise e fu richiamato in Italia l'ambasciatore italiano al Cairo. Passò un anno. poco più di un anno, e il 14 agosto, prego di notare la data, il 14 agosto di un torrido ferragosto, fu rimandato in Egitto quell'ambasciatore al Cairo, perché si disse così le relazioni con l'Egitto e appunto il rapporto con la cooperazione giudiziaria necessaria tra Roma e il Cairo sarebbe stata più intensa, più serrata, più controllata. Bene, non c'è stato un solo passo avanti, non un solo. La procura di Roma ha fatto un lavoro veramente eccezionale, operando da Roma, attenzione, operando da Roma, è stato in grado di individuare 5 presunti responsabili, 5 sospetti responsabili. Certo, operando da Roma più di questo non poteva fare, e ha fatto tantissimo, ma dalla parte dell'Egitto non c'è stata nessuna collaborazione. Quindi quelle persone, che sono 5 appartenenti al servizio segreto interno, ovviamente non sono stati né mandati a giudizio né sono stati interrogati, perché la rogatoria che la procura di Roma ha tentato di fare non ha avuto ovviamente successo. No, ma certo. Allora, io nel ringraziare il senatore Luigi Manconi ci sentiremo e ci riaggiorneremo. La ringrazio, ci ha dato questo spaccato, insomma, di una vicenda che Manconi ha seguito e segue dal primo giorno, proprio dall'inizio, e quindi conosce anche i familiari, conosce la situazione molto bene. Ecco, questo temere che sia troppo tardi è la cosa che speriamo non sia così, ma che sembra invece purtroppo così. Dobbiamo andare a informazioni sul traffico, grazie a Luigi Manconi, rientriamo tra un attimo. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 9:51 minuti, caro Leonardo, ti cedo subito il microfono perché è il tuo momento. Oggi siamo allegri, amari, come siamo? Così. Un po' così. Quando ero bambino, come molti altri bambini, amavo fare la raccolta di figurine. Era tutto un mondo. Mondo che cominciava con la richiesta ai genitori di comprare qualche pacchetto in edicola, imparando fin già da piccoli a negoziare. Se l'obiettivo era di avere 2 pacchetti, si cominciava con una richiesta più alta. Mamma, mi prendi 5 pacchetti di figurine? E la mamma, 5 no, sono troppi. Allora 3, sei già pieno di figurine, dai mamma, 2, va bene, 2 te le prendo, ma è l'ultima volta. E poi il giorno dopo si ricominciava col papà. Col papà si poteva puntare a 3 pacchetti, perciò si partiva chiedendone 6. Questo perché di solito il padre, essendo anche lui appassionato di calcio, non era poi così contrario alle figurine dei calciatori e quindi cedeva più facilmente. Poi, una volta ottenuti i pacchetti, c'era sempre l'emozione di aprirli, sperando che dentro ci fossero figurine nuove e non copie di altre già possedute. C'erano quelle introvabili, come quella mitica di Pizza Balla. E poi, dopo la soddisfazione di aver attaccato quelle nuove, le altre si mettevano nel pacchettone delle copie e con quelle si andava a scambiarle o a giocare all'oratorio. Si giocava a sopra, vinceva il giocatore che lanciando la figurina riusciva a piazzarla sopra a quella dell'avversario. Si giocava a costa, vinceva il giocatore che per primo riusciva a far stare la figurina in piedi contro la parete del muro. Si giocava a numero, dove contava più la fortuna che l'abilità. Insomma, la raccolta di figurine rappresentava la costruzione di un mondo, soprattutto per i maschi. E quelli che erano più abili nella negoziazione dell'acquisto dei pacchetti, poi sicuramente sono diventati ambasciatori o capi di gabinetto, proprio grazie all'esperienza acquisita con le figurine. E poi alla fine, una volta completata la raccolta, l'album restava lì e negli anni successivi lo si sfogliava, ricordando com'era stato quell'anno, anche a prescindere dal calcio e dai calciatori. Quell'album diventava qualcosa di più di un semplice album di figurine, diventava un ricordo, un pezzetto di vita. Se noi dovessimo fare l'album del coronavirus, quali sarebbero le immagini che vorremmo restassero cristallizzate nella nostra memoria? I guanti, la mucchina, le mascherine, le pizze fatte in casa, i balconi, l'assessore Gallera, il governatore Fontana, il ministro Speranza, il premier Conte, o la tragica immagine delle bare trasportate dai camion militari e poi i droni che ci controllavano dall'alto, le città vuote, le code davanti ai supermercati. Noi, soprattutto noi occidentali, abbiamo bisogno di immagini. Abbiamo bisogno anche di oggetti simbolici che ci ricordino qualcosa del passato. Quando siamo bambini ci bastano le figurine a testimoniare che quell'anno noi c'eravamo e la nostra vita è andata avanti. Poi più si cresce, più i ricordi si accumulano. E allora conserviamo oggetti che per noi sono rappresentativi di qualcosa, di qualcuno. Io, ad esempio, conservo gelosamente una piccola scultura di terracotta che mi regalò un detenuto di San Vittore. Mi disse che quando facevo quelle sculture si sentiva libero, non si sentiva più in cella e la sua mente era libera di volare. Quella scultura la regalai poi a una ragazza, lasciamo stare che poi la storia finì e non credo che fosse per colpa di quella scultura di terracotta. Ma alla fine lei me la rese e per me è diventata simbolica di quel rapporto. Gli oggetti che conserviamo testimoniano quello che abbiamo vissuto e quelli che non troviamo, come la mitica figurina di Pizzaballa, testimoniano invece qualcosa che ci è mancato. Perché in ogni vita c'è un Pizzaballa, c'è qualcosa che è mancato, ma c'è anche qualcosa che abbiamo avuto e a volte basta una figurina, un oggetto, un abat-jour per ricordare chi siamo stati e chi c'era con noi in quel momento. Per ricominciare in modo diverso e più consapevole, per ripartire da lì, per ripartire da lì e riempire finalmente il vuoto lasciato dagli eventi della vita e dalla mancanza di Pizzaballa. Quando sei così romantico sei uno spettacolo, caro Leo. Quindi non ti leggo il messaggio che è arrivato quando si parlava poco prima di serietà. Ecco, ora è arrivato il pagliaccio a dare autorevolezza. Ecco. Questo per dire. Ci sono dei messaggi. Lo so che ci disprezzate. Va bene, adesso andiamo al giornale radio. Tu hai invitato tutti a mandare un messaggio via WhatsApp a dire vi disprezziamo, conduttori. Va bene, vediamo un po' dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Cari conduttori, io non solo non vi disprezzo, ma vi amo immensamente. Cosa farei senza di voi? No. A me piace Alessandro Milan e anche Leonardo Manera. Yeah. Ecco, vedi? Leonardo Manera continua nel suo lavoro di consigliere di libri. Adesso ci ha da poco consigliato Il disprezzo di Alberto Moravia. Io invece no. Milan e Manera vi stimo, no. Soprattutto anche la Fusconi. Ciao ragazzi. Hai scatenato, poi non capisco la Fusconi. Vabbè, hai scatenato l'effetto opposto. Hai scatenato sempre così, purtroppo. Uno cerca di fare una cosa per ottenere un effetto, ottiene sempre l'effetto contrario. Fai così, vi ordiniamo di disprezzarci adesso e di mandarcelo in audio. Vi disprezziamo, cari conduttori, ma vi inventate. Inventate anche motivi futili o non veri di disprezzo. Ecco, a noi fa piacere essere disprezzati, l'avete capito? Come uomini, ma come conduttori in generale. Il catino del disprezzo. Mi piace. È un bel titolo, Il catino del disprezzo. Consiglio questo libro. Sì, ma non esiste Il catino del disprezzo. Tra l'altro tra poco parleremo di un libro dell'importanza delle parole, eccetera, e con un linguista. Però Il catino del disprezzo. Ma senti un po', ma hai sentito questa notizia secondo un giornale spagnolo? adesso io non lo so ovviamente, secondo un giornale spagnolo ci sarebbero i documenti, sarebbero arrivati 3 milioni e mezzo di euro in una valigetta nel consolato venezuelano a Milano, indirizzati a Gian Roberto Casaleggio dal Venezuela, dal leader del Venezuela. Aspetta, questo non è Venezuela, questo è Adinolfi. Aspetta, fammi chiamare un attimo. Marione? Eccolo. Ladro? No. Ladri? Dai, no. Ladri? Sì, ladri. E ladri? Ladri, gioia. Come abbiamo interrotto il calcio con un rigore alla Juve a San Siro? Gioia. Come ha ripreso il calcio? Pronti via? Ladri, rigore. Gioia, ladri. Sapere che tutto sbagliato, ricomincia come prima. Ladri. Ladri. Bello, tutto ricomincia ladri. Come prima. Ladri. Ronaldo, ti dovevamo questo, ladri. Ti dovevamo questo. Ladri, no. Espulsione, indietro. Questo rigore perché hai fatto qualcosa il gesto del frustrato. Non si fa. Non si ma va che frustrato? Abbiano appena sbagliato un rigore e sarete stati frustrati voi. Sarete stati frustrati voi. Questo rigore è la dimostrazione, come si dice, plastica, che non era vero quando si diceva niente sarà mai più come prima, tutto è esattamente esatto. Come prima, come prima. Tu, come prima. Come niente, la dimostrazione. Ma non lo trovi confortante tutto questo? No, qual era? Incredibile. Tanto tu mi lantavi 3-0, 3-0, manco siete riusciti a fare un gollettino, in 10 eravamo noi. Cioè. È più divertente così. 3-0, sì. Non eri abbacchiato, non mi telefonavi. Invece così è più bello, capisci? È tutto più... Un saluto al gentile siamo usciti imbattuti, siamo usciti imbattuti. Aspetta, un saluto al gentile pubblico, lui che sì lo disprezza, lui sì che disprezza il nostro pubblico da sempre. Un saluto al gentile pubblico, tu che lo disprezzi. Tu che lo disprezzi, tu che lo disprezzi. Senti un po'. Ma senti un po', ti becco al volo su questa notizia, ma visto che dicono che al Movimento 5 Stelle sono arrivati 3 milioni e mezzo di euro in valigetta, perché, ragazzi, proprio la valigetta, come ma è meraviglioso, di ma veramente non è cambiato no, niente, no, veramente, no, Juve ruba i soldi in valigetta, aspetta, non è detto... Qua. Ma non è detto, cioè adesso subito si arrabbieranno quelli del 5 Stelle, non è detto, è un'ipotesi, giornalistica. Ah, è un'ipotesi ma tu... giornalistica, ma divertente, beh, sì, 3 milioni e mezzo di valigetta, infatti che non c'entrano come mezzo di valigetta, o no? Non lo so, una valigiona, forse una valigiona. Ma a te soldi, non ti arrivano mai soldi? Al popolo della famiglia non arrivano. Eccola, è meno male, nessuno che ti dà una valigetta. Nessuno che ti dà una valigetta piena di soldi, vabbè, ladri, niente, che peccato, ti devo dire? Però, allora, a questo punto ti devo chiedere un pronostico per la finale Juve-Napoli. Attenzione, registriamo tutto, Carmelo. Juve-Napoli, finale di Coppa Italia domani, mercoledì. Ho un aspetto particolare per il Napoli, quindi 2-1 per la Juventus, perché voglio vederli godere nella fase in cui Mertens porta il Napoli in vantaggio. Quello è una cosa che mi diverte. E poi Ronaldo. Ovviamente su due rigori, ovviamente rigori, perché è mica li sbaglia sempre. Rigorino al limite dell'area. Ho rischiato quasi di smadonnare sul rigore sbagliato. E sai che per me sarebbe stato gravissimo. Quindi come mai smadonnare? Fatti Mario Di Nolfi. Avevo messo eccessiva attenzione sulla partita. Di solito l'avrei vissuta con più rilassatezza. Avrei detto vabbè, Juve Milan, non è che posso stare che capito, un pochino di attenzione di troppo pronostico, eccetera, eccetera. Vabbè, niente è cambiato. Senza ladri, pubblico, senza pubblico com'è l'impressione? La si guarda lo stesso volentieri o sembra che manchi qualcosa? Ho visto la partita del Barcellona. L'ha visto in 8 milioni. Col pubblico finto, secondo me dovrebbero fare così. Quella del Barcellona aveva il pubblico finto con i finti cori. Era molto più divertente, secondo me. Dovrebbero inventarsi qualcosa, almeno televisivamente. Insomma, la PlayStation, mettere il rumore del pubblico. Bravissimo Malera, oggi ti vedo sveglio particolarmente. Che è successo? Ma non mattina, non ha dormito. È l'idraulica. Non avete bisogno, potete rubare comunque, insomma, anche senza il pubblico. Vincere, pareggiare per la verità. Zero. Ricordiamo che la Juve passa per un rigore inesistente, quello dell'andata. Così, per chiudere con una nota di cronaca, fosse finita 1-0 all'andata e invece dell'1-1 con quel rigore totalmente inventato. Beh, va bene, Marione. Ti voglio bene posto. Comunque. Viva Indro Montanelli. Grazie. Buona giornata a tutti. Sì, ciao. Niente, però sul rigore dell'andata, zitto è stato, muto, non ha aveva fatto la sua solita ironia. Va bene, va bene. Oh ragazzi, no, la notizia, ripeto, è molto seria. Addirittura c'è chi chiede di bloccare subito gli stati generali, sospendere tutto per questa notizia che arriva da un giornale spagnolo, secondo il quale Maduro, presidente del Venezuela, avrebbe finanziato con 3 milioni e mezzo di soldi in una valigetta il Movimento 5 Stelle, di fatto Casaleggio. Vabbè, ma è tutto, eccetera, da provare, e soprattutto è tutto da provare, però che... ci sarebbe, ma è un giornale, sono... che giornale è? Tu lo sai che giornale è? Qual è? No, no, non lo so. Sicuramente sarà ABC, un giornale dei ABC, poteri forti. Sarà un giornale di proprietà dei poteri forti, quindi questo tu che sei piegato, tu che sei piegato al sistema, come ben si sa, dai, dai voce a questi poteri forti che cercano di creare scompiglio negli unici liberi, negli unici liberi, si diciamolo. Sa, si sa, va bene. Il disprezzo non arriva nonostante questo tuo tentativo, no. Però, però va bene, allora mandateci. Il catino dal disprezzo, guarda che è un bel titolo, il catino dal disprezzo, è un bel titolo per un libro, io lo propongo. Come anche propongo un altro titolo per un libro, per qualche autore, attenzione, oggi sono prolifico. Attenzione. Vittorie di Pirro, ti piace? Vittorie tutte di quelle Pirro. Vittorie nella vita che poi in realtà che non hanno portato a nulla. Ma chi ha scritto Vittorie di Pirro? Un interista, scherzo. No, è un mio titolo, è un mio titolo che propongo per qualche altro. Vittorie di Pirro. Vittorie di Pirro. Poi l'autore ovviamente è Pirro. Vabbè, comunque no, è vabbè, una bella idea, cioè tutte quelle cose che danno una soddisfazione temporanea e che poi si rivelano invece non appaganti. Allora, tra poco, subito dopo il traffico, avremo ospite un linguista che ha scritto un libro sulle parole all'epoca del coronavirus, le parole in questi ultimi mesi, no? Da infodemia, epidemia, poi arriviamo a quelle un po' tipo lockdown, plateau e quant'altro. Magari gli proponiamo qualche titolo di libro. No, io solo titoli. Oggi mi piacciono... Sì, Vittorie di Pirro oppure Il Catino del Disprezzo. Il Catino del Disprezzo, va bene, tra poco, state con noi. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, sono le 10:19 minuti, qui c'è un Leonardo Manera in gran spolvero, bisogna dire, in gran spolvero sul tema letterario. Vuoi suggerire un altro titolo di libro? No. No. Basta. Bene. Ecco, giusto per smettere. Sono già sufficienti. Certo, allora, per... va bene, ottimo. No, no, ma beh, fai tu. Bene, allora... Non è che ogni giorno possiamo essere troppo prodighi di consigli gratis, tra l'altro. Metti che ci sia all'ascolto qualche autore che non sa come chiamare la propria ultima creazione. Io no, allora, visto che abbiamo adesso un professore di linguistica che tra poco saluto, ricordiamo i titoli dei due libri che tu hai proposto. Poi qualcuno deve partire dal titolo, creare il contenuto. Ecco. Quali sono i due titoli? È secondario, guarda che i libri si vendono di più per il titolo che per il contenuto. Ma vabbè, però non è che le pagine devono essere vuote all'interno. Ma il contenuto di un libro non conta. Io ho sempre comprato i libri a partire dal titolo, poi non li leggo quasi mai. Il titolo e la copertina incentiva molto, però ma è l'unica cosa. Io ho comprato, ne capita uno sotto mano adesso, Un cannibale a Manhattan, e questo l'ho comprato per il titolo. Il libro è terribile. di Tama Janowicz, è veramente un brutto libro, ma io ho detto un cannibale a Manhattan, lo compro per il titolo. Quindi questi due titoli serviranno a vendere e a vincere, sì, il premio. Ricordiamo, il catino del disprezzo. Uno è il catino del disprezzo. Il catino del disprezzo, è bella questa immagine, proprio il catino del disprezzo. Sì? E l'altro è Vittorie di Pirro. Vittorie di Pirro potrebbe essere, do anche un'idea di contenuto così vagamente. Ah, la storia di una persona. No, sì. Comunque, la storia di una persona che va, va sempre incontro a soddisfazioni effimere, ma non riesce a sistemare la sua vita nel complesso. Quindi lui si accontenta di queste piccole cose che però poi non lo rendono completamente appagato. Mi piace di più il catino, mi piace di più il catino del disprezzo. Però vorrei chiedere tutto. In realtà lui è venuto per parlare del suo libro, Giuseppe Antonelli, che insegna linguistica italiana a Pavia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno professor Antonelli. Buongiorno. Intanto, che ne pensa? Potrebbero avere successo, il contenuto poi vedremo, ma il catino del disprezzo a me piace tantissimo, questa immagine, sì, è bella. Tra l'altro ricorda il libro d'esordio di una bravissima scrittrice, Margaret Mazzantini, si chiamava Il catino di zinco. In quel caso, diciamo, il secondo elemento era concreto e non astratto, ma è stato un libro che ha segnato appunto l'esordio di una scrittrice. Quindi Manera fa così, ruba anche le mezze idee agli altri. Vabbè. No, è completamente diverso. Sì. Io metto insieme, come diceva il professore, l'elemento concreto con l'elemento astratto, ed è questo che fa assumere un ulteriore appeal al titolo stesso. Va bene, veniamo al motivo per cui abbiamo chiamato il professor Antonelli. Il professor Antonelli ha scritto un libro vero questa volta, mica come quelli di Manera, cioè c'è anche un contenuto oltre al titolo. Il titolo è L'influenza delle parole, edito da Solferino, ed è un saggio in cui si raccontano tutte le parole che sono entrate prepotentemente nella nostra testa negli ultimi mesi. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con tutte queste parole. Ce ne sono tantissime, professore. Intanto si dice sempre il peso delle parole. Lei ha detto, le ha titolato L'influenza delle parole. Ma davvero le parole hanno un peso? Si dice anche le parole sono come pietre. E cioè, sembra invece di vivere in un'era in cui si gettano parole così a vanvera, senza neanche dare troppo peso a queste parole stesse. Lei ritiene invece che le abbia? Bisognerebbe stare particolarmente attenti a questo, perché appunto gli antichi credevano che le parole fossero conseguenze delle cose. Ormai ci siamo resi conto da tempo che spesso è il contrario, spesso sono le cose a essere conseguenza delle parole, o meglio i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti a essere conseguenza di alcune parole. Io ho intitolato il libro, mi viene da sorridere pensando ai titoli di Manera, ma ho intitolato il libro L'influenza delle parole, perché mi sembrava racchiudere in sé i due aspetti, cioè da un lato qualcuno ha parlato di parole malate, nel senso che la lingua ha chiaramente dovuto rappresentare una situazione in cui la malattia era diventato l'argomento dominante, ma volevo anche parlare proprio di quanto le parole influenzano la nostra vita. Potremmo dire, usando un'altra parola inglese oltre alle tante che sono state usate in questo periodo, che le parole sono degli potenti influencer, dei fortunati influencer. Sì, sì. Quando ci hanno detto che questa era un'influenza, quando qualcuno l'ha chiamata nei primi mesi l'influenza cinese, a noi sembrava che fosse lontana, perché era appunto era lì, era in Cina, e che fosse tutto sommato innocua. Questo messaggio è stato un messaggio molto pericoloso e che ha avuto conseguenze che poi abbiamo visto, perché non ha fatto sì che noi prendessimo le dovute precauzioni. Io immagino che invece ancora oggi, se noi chiamassimo la mascherina, la distanza, misure salvavita, io credo che la gente, che tutti noi reagiremmo in maniera diversa, no? Perché questo mette in moto un certo tipo di reazione. La distanza sociale, forse chiamarla distanza di sicurezza, sì, avrebbe avuto un altro effetto, potrebbe ancora avere un altro effetto, perché il punto non è diventare asociali, nessuno di noi desidera assolutamente che questo avvenga, ma è mantenere la distanza minima che protegge la nostra salute e quella degli altri. Ma infatti lei parte insomma un po' dal parlare di che cosa? Epidemia, pandemia, anzi prima c'è stata l'infodemia. Effettivamente, ragazzi, non si parla d'altro, una roba disastrosa a un certo punto. Da mesi non si parla d'altro che di questo. Sì, no? Però non sempre si capisce di cosa si parla, no? Anche lì l'infodemia, sembrava che il problema fosse l'informazione e che non ci fosse un reale pericolo. Abbiamo visto che era esattamente l'opposto, ma anche epidemia o pandemia rischiavano di rimanere parole lontane. Insomma, se ci avessero detto che c'era una polmonite virale pericolosissima con un altissimo grado di contagio e che per la quale ancora non si aveva una cura o un vaccino, io credo che, ripeto, parlare di, in termini molto più netti, sì, è vero, avrebbe potuto spaventare, ma in certi momenti io credo che ci sia anche bisogno di usare parole che dicano chiaramente quello che sta per succedere. Da questo punto di vista forse l'inglese ha un po' mascherato ogni tanto, no? quelle che erano le notizie che arrivavano. Sì. Però è anche lockdown, vero che poi c'è, è arrivato anche il francese plateau, io il plateau non lo sopporto, non so perché, non so che cosa, non ho niente contro i francesi, ma quando ho sentito plateau mi sono innervosito molto, siamo sul plateau, che è anche un'immagine poetica, non ti piaceranno le scarpe col plateau, è per questo parlare di plateau sembrava si parlasse di montagne, no? Invece purtroppo non erano le montagne russe, ma era proprio la nostra vita che era in gioco in quel momento. E infatti molto meglio è stato per esempio dire io resto a casa, quello è stato un hashtag molto efficace, diceva molto chiaramente che ognuno di noi doveva prendersi una responsabilità e quella responsabilità era proprio legata alla protezione di sé e degli altri. Poi certo ci sono state anche quelle scherzose di parole, qualcuno parla di un Covid dizionario, è stato Covid dizionario, il Covid idiota per esempio, no? Covid idiota come quello che non si preoccupa degli altri, quindi non rispetta le regole, oppure che ha parlato di corona baby immaginando un boom delle nascite a 9 mesi dal periodo in cui eravamo rimasti tutti a casa. Però ecco, più che le parole scherzose che hanno cercato di alleggerire o certi meme che abbiamo visto, io credo che abbiamo capito quanto le parole siano importanti, anche immagini congiunti, cioè in quel momento una parola, l'interpretazione di una parola decideva chi poteva vedere chi e chi poteva avere rapporti con i propri cari. Beh, insomma, se non è questo il peso delle parole. Però in questo senso le parole possono, cioè l'importanza dei mass media diventa fondamentale, perché attraverso l'uso delle parole, che sono così, fra virgolette, pesanti, si può in qualche modo anche manipolare la società. È proprio così. Il mondo della comunicazione in cui viviamo, i social network, questo elemento, appunto, pensiamo virale, no? Abbiamo sempre detto, ritenendo che fosse una cosa dell'informazione, poi abbiamo capito che virus e virale non riguardano i computer. Questo moltiplica il peso delle parole, perché questo diffondersi rapidissimo crea immediatamente una suggestione, per cui bisogna stare molto attenti alle parole. Io credo che questo implichi una grande responsabilità per chi le usa le parole, chi ha un accesso alla comunicazione dalla parte di chi appunto parla, ma anche da parte di chi ascolta, perché quella persona sta usando quella parola, perché in quel momento vuole farmi avere determinate sensazioni, perché poi dietro il significato delle parole c'è anche un significato nascosto, per cui evocano in noi qualche cosa. E allora una maggiore consapevolezza forse fa sì anche che stiamo attenti a non farci più truffare. Io penso, tra l'altro mi occupo anche della parola mascherina, che è una storia, un'etimologia affascinante, perché viene probabilmente da una parola masca che in italiano antico indicava la strega, questo già è abbastanza evocativo. Poi questa parola passa per i dialetti settentrionali, maschera, arriva in Inghilterra e ritorna con un altro accento e un altro significato, il mascara, per esempio. Ma dai, bellissimo. Quindi, certo. No, le parole sono straordinarie, perché fanno dei percorsi non solo nel mondo proprio fisici, geografici, ma anche di significato. Le prime mascherine in senso chirurgico appaiono, insomma, in senso medico, così di professione, nei primi del Novecento. Ma c'è però anche... c'è anche, scusi se lo interrompo, c'è anche una digressione storica, no? La famosa grippe manzoniana, peraltro grippe si dice, questa radice c'è ovunque, anche in russo penso si dice grippe, sì, è febbre, perché il francese era all'epoca, è stata insomma, fino al 1900, la lingua che ha influenzato tutta Europa. In Guerra e Pace ci sono pagine e pagine di dialoghi in francese, se vi ricordate, e questo grippe però, o questa grippe, anche lì qualcuno chiamava il maschile, qualcuno al femminile, era una parola francese che indicava l'influenza. Ci sono delle lettere, io parlo di una che era la donna amata da Leopardi, la Spasia di Leopardi, che parla di un'epidemia di grippe a Firenze. Anche lì però oggi noi usiamo le parole inglesi, perché la pandemia è globale e la lingua globale è l'inglese. Un tempo si usavano le parole francesi esattamente per lo stesso motivo. Io non credo che sia un problema usare una parola straniera, l'importante è che tutti capiamo cosa quella parola significa. E esatto. La prima attestazione a noi nota di influenza nel senso moderno è in una lettera di Carducci, per esempio, E per chiudere questo percorso letterario, le mascherine c'erano ovviamente già come con altro significato nel passato. Pinocchio, quando finalmente capisce che il gatto e la volpe lo hanno truffato, lo stanno fregando, dice addio mascherine. E allora, ritornando al discorso di Manera, forse dovremmo dire addio mascherine non nel senso di smettere di usarle, perché anzi sono, ripeto, salvavita, ma nel senso magari di non fidarci di tutti i gatti, di tutte le volpi che continuano a raccontarci cose non vere. Sono. No, ma insomma, se avete capito, è una lettura spassosa, insomma, per cercare di fare un viaggio nelle parole, quella di Giuseppe Antonelli, L'influenza delle parole, lo trovate in libreria, ovviamente edito da Solferino. Noi, professore, la ringraziamo, dobbiamo andare alla borsa, ci sarebbe tanto da dire. C'è una parola che l'ha infastidita più degli altri, per esempio Plateau, ma anche adesso anche cluster, c'è un nuovo cluster, un pochino mi infastidisce questo. Il fatto è che le parole mi danno da vivere, quindi alla fine io le amo e le tratto con cura tutte quante. Anche quelle straniere, anche quelle antiche, anche quelle nuove, cercando di capire come funzionano e perché vengono usate. Quindi va bene. Allora, grazie professor Antonelli. Sai qual è la mia parola preferita che ogni tanto rilancio sempre? Quale? Apocatastasi. Sì, secondo me neanche il professore conosce il significato di apocatastasi. Apocatastasi, sì. Da anni la dico sempre perché è l'unica parola difficile che conosco. Mi vanto di apocatastasi. Va bene, professor apocatastasi, vai in borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Milan, so che non trasmetterai mai i miei messaggi perché sono tutti critici. Discorso di Giulio Regeni, che hai parlato con il senatore Manconi prima. Hanno fatto prestissimo a vendere fregate, ma non solo, all'Egitto. Il caso Regeni purtroppo sarà dimenticato più presto possibile. Quindi con l'Egitto, col dittatore Assisi, difficilmente ragionare. Se le vendi armi, sì, ma se vuoi qualcosa che riguarda la democrazia, nein. Buongiorno Alessandro Milan, Leonardo Manera, io vi disprezzo, il mio disprezzo nasce dall'invidia che vorrei essere al vostro posto. No. Io vi disprezzo come si disprezza prima mattina mentre ti stai prendendo il caffè a bar, uno che te chiacchiera in da orecchie e non si ferma, io così vi disprezzo. Questo è un bel disprezzo. Questo è un bel disprezzo, ti vedi l'immagine, Leonardo, come quando Leonardo si vuol fare il caffè al mattino io lo chiamo, che senti titin titin col cucchiaino. Stamattina non l'ho fatto, sono andato al Bar Jimmy stamattina a prendere il mio caffè. Ma perché non fare una diretta dal Bar Jimmy una volta? Io gliel'ho proposto 50 volte. Mattina lo farò, sì. E Leonardo dice, una mattina lo farò, come una mattina sarò in diretta video su Facebook. E questa è la questione. Cioè, ormai oggi sei chiamerò Sandro pagliaccio. Fortunato. Oggi chiamerò Sandro Fortunato. Sandro Fortunato. Mamma mia ragazzi, guarda che sei una disperazione. Che possiamo sapessi. Fare? Sapessi. Comunque devo dire, il disprezzo di quello che... Cioè, stai bevendo il caffè e uno ti parla. È un'immagine bellissima, Ci stiamo avvicinando al disprezzo vero. Quello proprio... cioè il disprezzo. Abbiamo mandato anche in onda un messaggio che iniziava con non avrai il coraggio di mandarlo in onda. Devo tirare le orecchie a Lorenzo Nespoli. Sai che quelli non li dobbiamo mandare, quelle provocazioni che fanno così per vedere se hai il coraggio di mandare in onda, abbiamo deciso che non le mandiamo in onda più. Allora, devo tirare su di morale Leonardo Manera, gli 10-40 minuti. Che ci cuciniamo che oggi, David, del Terramatta via Trionfale a Roma? Che ci cuciniamo oggi, David? Ciao, Manera. Mila, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. David, come va? Bene, è stata una domenica un po' moscia, però devo dire che è andata abbastanza bene. Posso dire. Aspetta un attimo, scusa. Aspetta, che c'è da bene? Gli straccetti? Ok. No, comprati i peperoni. Ma figurati. Mira, scusa un secondo. Va, tranquillo. Oggi i vongoli non ci stanno. A posto. Non ci stanno. Vongoli. Allora. niente, oggi vongole no, Manera, no, volevi le vongole? No, l'ho prese stamattina le vongole, sono proprio belle, no, proprio che sputano ancora l'acqua, le vendo domani. Bello. Signora, siccome l'ha visto il video minuto, ha detto le voglio oggi, ho detto no, domani. Ho capito, le vendi domani, che non stanno fresche domani, no, cioè che fai? Sì, perché, un giorno... No, questa qua è una signora che vuole fare il menù a un prezzo basso, no, però il problema qual è? Ah. Che io oggi la vongola me la vendo a 18 euro al piatto, diventa una vongola importante, domani me la vendo a metà. No, questa volete pagare a metà oggi? Io ho detto no, io domani a Fulmina. Domani a 9 euro, oggi a 18. Bravo, bravo. Infatti, quindi, ma le vongole riesce a liberarle dalla sabbia o restano sempre un po' sabbiose? Resteranno un po' sabbiose? No, io l'ho presa stamattina, non so che sta ancora, sputano l'acqua, cioè sono proprio vive, cioè sputano proprio dentro l'acqua. E... Ma che ci facciamo? Uno spaghettino anche... alle vongole? Uno spaghettino alle vongole? Vongole cioè, qui c'è tutti i giorni, meno male che finisco, cioè ogni giorno questo, però io faccio dei menù, ripeto, un po' più oggi a menù semplice faccio la norcina, ripeto, per lavorare con la borgata faccio piatti un po' più semplici, oggi faccio una bella norcina. E faccio come secondo, diciamo, faccio i sacci di broccoletti. Cos'è la norcina? Cos'è? Come si fa la norcina? Cos'è? La norcina è semplice, pasta casa. Ce la puoi fare anche tu? Pasta con la salsiccia, bella. Ma la salsiccia come deve essere? Di norcia? Ma guarda, la salsiccia no. Se è una salsiccia, dipende quanto vuoi far pagare il piatto. Io comunque ho una salsiccia normale, va, prendo dal macellaio qua che sta qua a fianco e vado. Comunque ti dicevo, vale. Un sabato e domenica un po' moscetto, comunque a me moscetto. Niente. Sì, un po' moscetto, un po' dei colleghi ho sentito un po' difficile, però ce la stiamo cavando, ce la stiamo mettendo. Ma i primi turisti sono arrivati, stanno arrivando in qualche modo, sì, dall'Italia forse qualcuno... Dostoevskij, i turisti non si vedono neanche quando era prima. Sì, se è vero che tu stai in borgata, certo, tu stai in borgata. Sono entrato in borgata, sì, no, turisti, c'è giusto qualche cugino di qualcuno che abita qua, che viene a trovarsi, pensava, però niente, non ci stanno tanti turisti. Però giustamente tu ci hai detto, la gente non sa cucinare a casa e quindi torna da Davide, finalmente. Cioè, Devo dire, no, tanta gente appunto sta a prendere respiro, viene, no, io lo dico proprio come è, anche tanta svolta, perché tanta gente ha mangiato male in questi giorni a casa, quindi qualsiasi cosa uno gli fa oggi comunque è contenta, cioè ogni cosa dice, finalmente, comunque pure il piacere di stare a tavola e tutto il resto, comunque oggi è più facile fare ristorazione. Adesso voglio dire una cosa brutta, però mi tocca dirla, comunque tanti hanno chiuso, quindi siamo un po' di meno, e quindi sono rimasti soltanto i più bravi, più veraci, più capaci. Adesso è una cosa brutta che dico, però purtroppo è vero un po' questo che sto qua. Un po' di selezione naturale, purtroppo. Una selezione, quindi volendo si può anche cucinare peggio, male, perché ci sono meno ristoranti, che risparmiamo un po' sulle materie prime. No, ho detto che poi le cose di seconda, diciamo, io di prima seconda. Del Covid non riuscivo a fare niente, perché comunque la gente, tutti i chef di un livello troppo alto, no? Oddio, come fa sta cosa, ma no, invece oggi sono un po' più calmati, oggi è più piacere da sta tavola, di finalmente siamo usciti, cioè prima l'argomento del tavolo era, oddio una carbonara, ma io però te porto da una parte dove la fanno meglio, sì, ma che guanciale usato, invece oggi l'argomento della tavola è diverso, cioè è il piacere più di sta tavola, finalmente, cioè ritornare un po' di ristorazione, cioè che prima andava a tavola, appena si sedevano, pure i ragazzi c'erano 20 anni, di che parlavano, io ho 20 anni e parte non c'è una magna fuori, ma parlavo di altre cose, no? E se invece venivano, no, ti faccio vedere la carbonara come è fatta, mi buttavano dal vetro, facevo, chef, scusa, che guanciale hai usato? Che guanciale hai usato? E stiamo scherzando, il guanciale. che non mi sembra proprio guanciale questo. Come ti sembra guanciale? Quindi fammi capire, oggi abbiamo le vongole a 18 euro però, mica la signora entra e le vuole a metà, domani se rimangono. Se io c'ho una signora poi, che oltre... tutti i giorni a fare il menù e volevo spaghettina a vongola perché mi ha viste portarle dentro. Io stamattina sono andato quasi vicinati a piarle, Cioè, non è che non scherzo, non ha visto, vabbè, oggi mi fa lo spaghettino, se faccio lo spaghettino, adesso è scema, domani lo spaghettino. Spaghettino 18 euro, no, 18 euro, no, spaghettino no, 18 euro. Se vuoi mangiare il pesce, io il ristorante, una trattoria, un po' deluso, cioè, se vuoi spendere i soldi, ti do tutta la grande possibilità di spenderli, se ne vuoi spendere, ti devi un po' adeguare, diciamo, questo è il concetto. Comunque io ci tenevo a dire che io faccio la carbonara verace, ci metto dentro il salame golfetta, non so se sei d'accordo con me. Oh mio Dio. Ma cosa? Ma che è quella tradizionale con salame golfetta. Salutiamo il signor Golfetta, non so chi sia. Guarda che è la vera Sarà carbonara di salame, ottimo. Ma che ci sta il salame nella carbonara? Mamma mia, ragazzi, David, a che gli dobbiamo dire questo? Il salame golfetta. Chi ama la carbonara usa golfetta, io l'ho letto. Quindi. Sì, lo slogan, proprio così. Chi ama la carbonara usa golfetta, mamma mia, ragazzi. Oddio, vabbè, David, non l'ho mai sentito. No, non lo so, ma sarà un produttore di salame straordinario, non lo so cosa c'entra con la carbonara. Tu sei tifoso della Roma, della Lazio, che sei? No, Mila, io sono commerciante, agnostico. Io non sono né da Roma né da Lazio, non sono né di destra né di sinistra, un vero commerciante né di niente, perché anche in vita privata, vabbè, alla fine, lo sai che c'è, il privato, il cugino, alla fine, se devi venire a mangiare, è meglio che non sai come la pensi, capito? Infatti ho io non capito, so però niente. Dai, il calcio non è una roba, come dire, perché se sei della Roma o della Lazio non viene a mangiare da te, no, dai. No, però che c'è, però guarda che nascono situazioni un po' bizzarre, eh. Io ti ripeto, io sono commerciante, io non so quasi di niente, capito? Sì. Giusto mia moglie sa qualche verità su De Meri riguardante il calcio e la politica, sì. Ma nessun altro sa niente. Ma non tutte le verità. Va bene, David, grazie, un grande abbraccio, tutti da Terra Matta, via Trionfale, appena arriviamo a Roma veniamo a mangiare, sempre che ci fai pagare, questo è il patto, noi veniamo a mangiare, ma dobbiamo pagare, tanto paga Manera, chi se frega. Tanto formaggio soprattutto sulla sua pasta. Soprattutto, mi raccomando. Certo. Sì, traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Uno, nessuno, 100 Milan. Io vi disprezzo come De Luca disprezza chi non porta la mascherina in Campania, vi disprezzo! Io vi disprezzo come si disprezza prima mattina mentre ti stai prendendo il caffè a bar, uno che te chiacchiera, rindare e non si ferma, io così vi disprezzo! Va bene, va bene. Allora, è venuto a trovarci con grande piacere, ritorna subito il clown Neronello, evidentemente gli manchiamo perché è venuto l'amico anche la settimana scorsa. Bambini. Buongiorno. Yup. Buongiorno da clown Neronello. Allora, stanno per ripartire i centri estivi e tra poco si potrà tornare a fare delle piccole festicciuole, ma per il momento io continuo a fare i clown in smart working. Appaio sullo schermo del computer dei bimbi, lancio dei coriandoloni e faccio subito un indovinello per farli divertire. Per esempio, bambini, qual è l'animale che ha fondato una setta? È il canguro, il canguro. Bene. Bene. Appena ho detto questa bella battuta, uno di loro ha cominciato a minacciarmi. Allora ho detto, bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Vestiti completamente di giallo, prendi in mano un mazzo di fiori e vai a vedere da vicino come funziona un alveare. Stava per succedere l'irreparabile. Quando è arrivata la madre mi ha detto, clown Neronello, lascia stare i bambini, perché invece non diamo un'occhiata al tuo pungiglione? Allora abbiamo iniziato a scambiarci messaggi bollenti. Ormai stava scadendo il mio tempo, ho salutato la calorosa mamma e ho raccontato loro, ai bambini, una delle mie favole, le favole del clown Neronello. Adesso ho aperto una bella banda, la regia, bellissimo, che tempismo. Complimenti. C'era una volta un regno, bravissimo Carmelo Lauricella, un uomo che non conosco e che profondamente però disprezzo. C'era una volta un regno che affacciava su una baia dall'acqua cristallina. Lo guidava un sovrano buono ma sedentario che i sudditi chiamavano affettuosamente Resto a casa. Una mattina d'ottobre arrivarono di corsa le vedette, annunciando il pericolo incombente. L'ambizioso re Mazzurco stava avanzando con le sue truppe ed era pronto a conquistare il regno. Tra la popolazione si scatenò il panico. Resto a casa era troppo pigro per affrontare una guerra. Furono convocati i migliori scienziati, inventori, cavalieri, stregoni, una task force di tutto rispetto che doveva mettere in piedi una valida strategia. Ma a nessuno venne un'idea brillante, e intanto il potente esercito di Re Mazurco avanzava per terra e per mare. Alla corte di Resto a casa l'atmosfera era sempre più tesa. Solo un uomo, il gran ciambellano, sembrava tranquillo e rassicurava tutti, sorridendo con la sua dentatura complessa. Tranquilli, ragazzi, ho un cugino che conosce un tizio che è amico di una tipa che una volta stava con uno che mi ha dato una dritta. Non ho capito niente, ortodonzio, disse il re. Si fidi di me, ho tutto sotto controllo, sire, rispose il ciambellano. Dalle finestre si sentì uno sparo di cannone. La nave di Re Mazurk era arrivata nella baia e i soldati erano pronti a sbarcare, ma improvvisamente furono fermati da due agenti in borghese. Fermi, la nave è sotto sequestro. Re Mazurko provò a difendersi tirando fuori un po' di scartoffie. Guardate, deve esserci un errore. Io ho tutti i permessi in regola per invadere questo regno. I documenti sono ok, ma siete in arresto per narcotraffico, disse uno degli agenti. Ah, comunque su quel foglio manca una firma, quindi c'è anche una multa di 452 euro. E così Re sto a casa, che aveva guardato tutta la scena mangiando popcorn al suo divano, abbracciò Ortodonzio e si complimentò con lui per la brillante idea di nascondere alcuni panetti di cocaina nella stiva. Bambini, qual è la morale della favola? Quale morale? La cocaina! Se cercate una soluzione legale e vi rivolgete ai migliori esperti per avere un parere sul da farsi, le navi nemiche invaderanno il vostro regno, e vi abbatteranno. Se invece vi affidate a un consulente trafficone, con un po' di amici loschi come Ortodonzio, potrete continuare a rilassarvi e vivrete per sempre felici e contenti. Contenti. Questa è la morale della favola, cari bimbi. Ma come gli applausi anche, Carmelo gli manda gli applausi, ha parlato di cocaina, i bambini. Avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Oh, oggi è molto allegro il clown Neronello, bene, va bene. Allora, grazie, arriva anche un Manera 6 adorabile da Micaela con la K. Micaela, è bello il nome Micaela con la K. Con la K. Di erotico anche Micaela con la K. eccolo lì. Dai, allora Micaela con la K. Ecco, immediatamente fa dei pensieri bollenti. Mamma, bollenti. Il clown Neronello col pungiglione, va bene. Dai, basta. Fermati Micaela lì. Con la K, soprannominata anche la bollente. Ho un libro per lei, Il catino dei bollenti. Il catino dei bollenti, scritto da Micaela con la K. Un abbraccio a Micaela e un abbraccio a tutti voi. Ci ritroviamo domani. Uno, nessuno.